ognuno il proprio ordine per ricordare le cose, lo spazio dell'ovunque, il tempo delle favole, ma in ogni luogo lercio in cui mi trovo respiro un'era nuova di te. Sai, spesso è il disordine a lasciar troppe parole, a raccontare il peggio che io do. E scene che non ho vissuto. Terra sembra immobile, eppur tutto si muove, i vermi sulle pagine ne cambiano il colore per trasformare il peggio che è.